24 mattino. Le 8 e 17 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, 349-238-6666 per i vostri messaggi oppure la mail 24mattino@radio24.it. È il momento di parlare a quest'ora, come sapete, di economia. Soldi e dintorni. Con Deborah Rosciani, che è qui tornata a fianco a me. Un po' più allegra di ieri mattina. Era lunedì, mettiamola così. Esatto. Era lunedì e quindi... Eccoci qua, Deborah. Allora, si potrebbe dire che non è tempo di vacanze in questo febbraio un po' così, un po' anche freddo. Però parliamo in qualche modo, esatto, di turismo, di vacanze. Esattamente. In realtà torniamo su un tema che è un grande cavallo di battaglia un po' per tutti in questo periodo, quello dei bonus, perché dopo i bonus famiglia e il bonus sociale, di cui abbiamo parlato proprio a soldi e dintorni, perché è quello che permette alle famiglie con determinati redditi di alleggerire la bolletta per l'energia elettrica, e oggi parliamo anche di una nuova forma di sostegno per circa 20.000 famiglie italiane. Per loro infatti sarà possibile entro qualche mese accedere al buono vacanza. Sono dei veri e propri ticket validi 12 mesi da spendere in strutture ricettive convenzionate. In realtà sono ticket che non coprono l'intera spesa, ma una percentuale del soggiorno nella località di vacanza che si sceglie. In realtà il funzionamento, le modalità di funzionamento e di erogazione di questi bonus sono ancora un po' avvolte nella nebbia. I buoni per famiglia dovrebbero comunque aiutare anche a rilanciare il turismo italiano, perché ovviamente poi ci sono settori di cui in crisi economica si parla un po' meno, ma anche questo evidentemente in questo periodo non se la passa molto bene. Parliamo di questo argomento con chi questa mattina. Saluto e ringrazio di essere con noi a Soldi e Dintorni Massimo Abate, direttore FITUS, la FITUS è la Federazione Italiana Turismo Sociale. Dottor Abate, buongiorno. Buongiorno a voi. Anche la responsabilità di Buoni Vacanze Italia, e cercheremo di capire esattamente anche quali saranno i criteri di assegnazione e le famiglie come potranno accedere anche alle strutture alberghiere utilizzando questi strumenti. Buongiorno anche ad Alessandro Cianella, che invece è direttore generale di Federalberghi. Dottor Cianella. Buongiorno anche a lei. Allora, Massimo Abate, partiamo intanto con dare subito qualche informazione concreta. Il sistema Buoni Vacanze diventerà operativo non prima di aprile? No, sicuramente c'è ancora una fase di messa a punto, principalmente la convenzione con il Dipartimento, con l'Associazione Buoni Vacanze Italia della FITUS Federalberghi. E poi naturalmente la diffusione del sistema per accedere, e quindi dare a tutti la possibilità di poter usufruire di questi buoni avendo le giuste informazioni. Ecco, allora parliamo proprio di informazioni concrete. Quali famiglie avranno diritto ad ottenere, ad utilizzare questo bonus? Facciamo anche qualche esempio, magari certo, con qualche parametro reddituale. Sì, dunque... Come indicato nel decreto, sostanzialmente il parametro che permette di sapere se si ha questa agevolazione è semplicemente il numero dei componenti del nucleo familiare e i redditi complessivi sempre del nucleo familiare. Diciamo, per una famiglia tipo composta da 4 persone, quindi anche compresi i genitori, si va fino ad un reddito di 35.000 euro. In questo caso il contributo è un 20% su una spesa massima di 1.230 euro. Diciamo che in pratica avrebbero 246 euro di contributo a fronte di una spesa totale di 1.230, come dicevo. Allo scendere del livello di reddito 30.000 o 25.000, naturalmente il contributo sale a percentuali del 30 o del 45%. I parametri come familiari 35.000 euro sono relativamente alti e quindi potrebbero impattare, diciamo, abbastanza un po' tutte le famiglie, le famiglie italiane. Ecco, poi dovremmo anche spiegare però i periodi durante i quali è possibile utilizzare questi bonus, perché sì, in realtà non è possibile utilizzarli nei periodi di alta stagione. Adesso ci arriviamo, dottor Abate, però volevo coinvolgere anche Alessandro Cianella, direttore generale di Federalberghi. Le strutture alberghiere accolgono volentieri queste iniziative? Sicuramente sì, è una iniziativa che è in cantiere da tanti anni. Noi purtroppo come Italia arriviamo in grave ritardo sotto questo profilo rispetto ad esperienze maturate anche in altri paesi. Comunque finalmente questo provvedimento ha visto la luce, la macchina si è messa in moto, e sicuramente in questo momento di difficoltà dell'economia in generale e quindi anche delle strutture turistico-ricettivo-alberghiere è qualche cosa che può aiutare a dare un contributo situazione, quindi le strutture alberghiere già hanno aderito alla messa a punto di questo progetto, proponendosi e offrendo ovviamente tariffe agevolate, evidentemente, perché questo è l'altro aspetto fondamentale dell'intero meccanismo, che partecipano a questa iniziativa quelle strutture alberghiere che sono disponibili anche a praticare uno sconto, tra virgolette. Quindi uno sconto ulteriore, lei dice, rispetto anche all'utilizzo di questo ticket. Tra l'altro, dicevamo, dottor Cianella, mi deve dire come la pensa su questo. È chiaro che in un momento di crisi come quello attuale, come dire, la crisi va aggredita in ogni modo possibile, però non è per fare un discorso classista, perché poi a noi a Soldi e Dintorni non interessa assolutamente, ma non le sembra che questi turisti alla fine corrano il rischio di essere un po' turisti di serie B, già con redditi stretti, vanno in vacanza con il buono e ci devono andare anche quando le migliori spiagge o le migliori località di montagna non sono affollate da tutti i turisti, perché comunque sono buoni da utilizzare in periodi di bassa stagione? Beh, ecco, sotto questo profilo bisogna tenere conto che il provvedimento, la norma, sin dall'origine ha guardato ad agevolare, diciamo, soggetti che normalmente hanno difficoltà a utilizzare un periodo per vacanza. Si rivolge a fasce sociali definite, e tant'è vero che si parla di difficoltà economiche, diciamo, per alcuni versi. Quindi non è che si vuole discriminare tra soggetti che hanno maggiore o minore capacità di spesa, è che attraverso questo strumento si vuole anche favorire una sorta di destagionalizzazione del nostro turismo, che concentra proprio le attività classicamente in determinati periodi dell'anno, quando invece le strutture sono aperte anche negli altri periodi, e quindi se si riesce a favorire il loro utilizzo, tendenzialmente si fa anche una operazione di alleggerimento, no? Riempire gli alberghi anche in tempi di bassa stagione, evidentemente, certo. È necessario anche raggiungere questo obiettivo. Massimo Abate, ritorniamo a lei. Allora, dove le mandiamo le famiglie italiane che hanno diritto a questo bonus a ritirarli? Allora, il meccanismo dovrebbe funzionare in questo modo. Stiamo concludendo una convenzione con un istituto bancario, quindi direttamente l'utilizzatore si presenterà allo sportello, firmerà questa autocertificazione sulle sue condizioni di agevolazione, quindi il numero dei componenti familiari semplicemente, e dichiarerà il proprio parametro di reddito. In conseguenza di questo verserà la parte che rimane, come abbiamo detto è una percentuale il contributo, verserà la parte che rimane a carico dell'utilizzatore direttamente alla banca. A ricevimento di questa domanda il sistema emetterà questi buoni, che sono sostanzialmente dei ticket, una serie di ticket, quindi sono anche di diverso valore, quindi anche spendibili singolarmente per più momenti di vacanza successivo. Questo è da capire, che non viene agevolata la singola vacanza estiva intesa come ferie, ecco, parlavamo prima di agosto e delle spiagge, ma viene invece, può essere utilizzata per successivi momenti di turismo in senso lato, quindi anche turismo culturale, anche weekend familiari. Ecco, infatti volevo proprio chiederle questo, visto che abbiamo già parlato di determinati periodi in cui sarà possibile fruire e utilizzare questi bonus, ma per esempio la famiglia interessata potrà scegliere anche la città dove andare, o comunque ci sarà anche, come dire, dal punto di vista geografico, almeno in una fase iniziale, una limitazione, una scelta limitata, chiamiamola così? No, assolutamente no, nel senso che già, come giustamente accennava Fedele Alberghi, questo progetto, che non nasce, come dire, solo sulla contingenza del momento come misura sociale, ma è un tentativo di importare in Italia un modello estremamente diffuso in altri paesi europei. Quindi in qualche modo si voleva, questo buono voleva in qualche modo dare proprio possibilità di essere utilizzato in diversi momenti. Certo, tra l'altro ricordiamo che proprio precisando quello che lei stava dicendo, non è una, come dire, iniziativa contenuta in nessuno dei pacchetti anticrisi recente, ma una misura che risale, esatto, a evidentemente qualche tempo prima. Io ringrazio Alessandro Cianella e Massimo Abate per essere stati con noi, per essersi alzati presto per Soldi e Dintorni. Sicuramente quando si sarà un po' chiarita ulteriormente la modalità di erogazione e di utilizzo di questo bonus, non mancheremo di ritornarci. Buona giornata a tutti, Alessandro, anche a te naturalmente. Sì, grazie. Ovviamente poi ci scrivono anche turisti di serie B, sarebbe un sogno avere le spiagge deserte a marzo magari, ma insomma deserte. Grazie, alle 12, Deborah, alle 12 parliamo dalle retribuzioni ai contributi come regolari rapporti con i collaboratori familiari o le colf, perché li conosciamo un po' meglio così. Le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan, uno sguardo alle ultime notizie. Eluana Englaro è morta ieri alla clinica La Quiete di Udine, dove da venerdì erano stati sospesi idratazione e alimentazione artificiale. Ieri sera violenta polemica in Senato. Eluana è stata ammazzata, accusato il senatore Quagliariello del Popolo della Libertà, e si è sfiorato lo scontro fisico. Intanto il governo rinuncia a portare avanti il disegno di legge presentato venerdì scorso. Si riparte invece dalla discussione sul testamento biologico, che dovrebbe essere approvato in un paio di settimane. Una nuova ondata di maltempo in arrivo da oggi, come abbiamo sentito poco fa al meteo, previsti venti forti e mareggiate su gran parte dell'Italia. Intanto, nella tarda serata di ieri, è stato riaperto il tratto della A3 Salerno-Reggio Calabria tra gli svincoli di Cosenza Nord e Falerna, chiuso dal 25 gennaio a causa della frana che ha ucciso due persone. Infine il calcio, stasera a Londra, l'amichevole di calcio appunto Italia-Brasile, è il derby del mondo, dice il CT azzurro Marcello Lippi. L'ultima sfida tra le due squadre risale al 1997. Ed è il momento, come di consueto, dell'editoriale del direttore del Sole 24 Ore, dedicato a Eluana Englaro. L'asterisco di Ferruccio De Bortoli. Nell'essere vicini al dolore della famiglia, come si fa quando viene a mancare una persona cara, ed Eluana è stata e sarà come una nostra sorella, vorremmo dire ancora alcune cose su questa triste vicenda. Ognuno è guidato dalla propria coscienza, e la coscienza di molti, anche di chi vi parla, è divisa tra l'amore per la vita e il dubbio se quel corpo avesse ancora vita. Ogni posizione va rispettata, ed è possibile ancora essere cattolici e laici nello stesso tempo, avere rispetto della vita e nello stesso tempo delle istituzioni. Non c'è stato alcun assassinio, i veri omicidi sono altri. La legge in discussione al Senato, che ci auguriamo continui, era ed è necessaria, e la colpa del legislatore è di non averci pensato prima. Ma quella legge, diciamolo chiaramente, non salvava la vita di Eluana. Colpiscono le urla scomposte di ieri al Senato. Che spettacolo triste. E se quella legge era così importante, lo diciamo ai tanti senatori che si sbracciavano, perché l'avete così a lungo subordinata a tante altre materie di più vile, spesso personale interesse? Buona giornata e un pensiero commosso a Eluana e alla sua famiglia, già sola. Grazie, allora, e a domani è Ferruccio De Bortoli. Ricordo che anche dopo le 9 parliamo con l'elefante Giuliano Ferrara, tornerà a trattare questo tema. Noi parliamo di altro alle 8:35 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Torniamo a parlare del tema multe che i comuni, che insomma le polizie municipali dei comuni fanno a tutti noi guidatori, perché ieri sul Sole 24 Ore del lunedì è uscita un'interessante inchiesta piena di numeri, densa di numeri, come sempre succede al lunedì sul Sole 24 Ore. Da ieri, tra l'altro, sul sito internet del Sole, voi volete vedere in qualsiasi comune d'Italia a quanto ammontano gli introiti delle polizie municipali, basta che andate lì, mettete il comune e vedete quanti soldi prendono. Allora, c'era anche un'interessante classifica, come tutte le classifiche si possono contestare, stare, dibattere, eccetera, sui i comuni italiani con i più alti introiti accertati pro capite, cioè il rapporto tra quanto incassano le polizie municipali e il numero degli abitanti. Non che tutte le multe vadano agli abitanti, anzi molto spesso non è così, però è un dato indicativo. Prima in Italia, per il Sole 24 Ore, Comabbio in provincia di Varese, poco più di 1000 abitanti, 3 milioni e rotti di introiti da multe, insomma 2856 pro capite. Ne saluto il vice sindaco Flavio Ruspini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno vice sindaco, che effetto le ha fatto? È rimasto arrabbiato a vedere? No, arrabbiato no, non capisco questo rapporto che lei insiste a sottolineare, il rapporto abitanti multe, perché sì, è chiaro che magari una grossa città non ha nessuna strada. Questa nostra strada, che è dal 61 che esiste, sembrava la panacea di tutti i mali allora, perché non c'era niente, oggi ad agio d'agio è diventato per noi una cosa impossibile, una cosa impossibile per il traffico. Cos'è, una strada statale? È una strada statale, la 626 del lago di Monate, che attraversa praticamente il nostro piccolo paese di 1300 abitanti oggi. Sì. Con questo non è che vogliamo, sappiamo benissimo che incassiamo queste multe, vorremmo arrivare a, non dico non incassare, perché per l'amor di Dio non disdegniamo il fatto che incassiamo, perché fanno comodo, insomma, 3 milioni di euro. Fanno comodo anche perché dobbiamo però sostenere tutti i marciapiedi e le strade di arroccamento che ci portano su questa superstrada, perché questa superstrada è meglio sottolinearlo, è di 4 corsie con un traffico enorme che porta... Comunque, lei contesta, diciamo, il rapporto, è un dato empirico. Più che contestarlo non lo capisco. Non lo capisce. Comunque... È una strada che attraversa il paese, che di fatto ci taglia il paese in due. È chiaro che se lei lo rapporta con gli abitanti, la cifra è altissima. Sì, ma perché potrebbe essere un dato, per esempio, per capire quanto incassa il comune in rapporto agli abitanti e quanto dovrebbe investire il comune per poi migliorare. Quindi questo, per esempio, è un dato che da questo punto di vista è molto interessante. A questo proposito saluto anche Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, sempre molto attento. Caprino, vuoi ricordare anche il tuo blog su questo tema, insomma, che segui sempre? Sì, si chiama Strada Sicura, lo trovate nella home page del Sole, ma era interessante quello che ha detto il vice sindaco sul fatto che c'è questa strada dal 1961 e quando non c'era nulla. Tanti paesi in Italia, troppi paesi in Italia, sono cresciuti proprio al lato di strade e quindi sono creati problemi di viabilità non dovuti alla strada, ma allo sviluppo urbano che ci saremmo tutti augurati fosse stato più ordinato. Il vice sindaco contesta il fatto, insomma, perché mettere l'introito delle multe in rapporto al numero degli abitanti. Un dato potrebbe essere interessante, Maurizio, per capire quanto poi i comuni di quello che incassano investono per la sicurezza stradale, perché poi questo è il fine in realtà della legge, no? Sono adempienti su questo i comuni? Assolutamente no, anche perché come tante cose che riguardano le istituzioni, tanti obblighi imposti dal codice della strada alle istituzioni, non c'è sanzione per gli inadempienti, quindi ovviamente perché adempiere? Non male come risposta. Comunque Comabbio è primo, poi c'è Villanova Biellese in provincia di Biella, 177 abitanti, 356 mila euro di incassi. In ogni caso, vice sindaco Ruspini, poi vabbè, tutta la classifica non la sto a dire, andate sul sito del Sole 24 Ore, trovate tutti i comuni eccetera. Vice sindaco, 3 milioni sono tanti, voglio dire, so che mi risulta che anche il prefetto un giorno vi ha chiamato a dire insomma, ma come mai tutte queste multe? No, non è così. No. Ma guardi, innanzitutto volevo contestare quello che dice il signor Caprino su un fatto, che non è vero che la superstrada fatta nel 61 e noi abbiamo costruito a dismisura, perché guardi, nel 61 eravamo, io non ero ancora in comune allora, ma eravamo 700 abitanti, oggi siamo 1300, non è che abbiamo fatto dei passi da giganti, lo sviluppo in questo paesino che manteniamo perché ci teniamo al territorio, quindi non è vero che è stato costruito sulla superstrada. La superstrada ha tagliato già allora il paese in due, quindi non è affatto vero, prima contestazione. Secondo, mi dice che nessuno controlla, come nessuno controlla questi introiti? Il bilancio viene controllato e c'è sì. Comunque è la prima fonte di introito, no? È il primo introito del comune. Sì. Beh, 3 milioni. Può immaginarsi un paese di 1300 abitanti. Immagino. Però noi dobbiamo fare delle strade di arroccamento, dei controviali per arrivare su questa superstrada e delle piccole circonvallazioni interne. Tutti i marciapiedi in giro che sono a carico nostro, anche se la strada è ANAS, i marciapiedi sull'ANAS abbiamo dovuto fare certo. Noi. Intanto, vogliamo ricordare, insomma, ci sono degli autovelox su questa strada statale. Sì. Scorrendo la classifica, al quarto posto troviamo San Giovanni Lipioni in provincia di Chieti, la classifica ieri sul Sole 24 Ore, poi Tora i Piccilli, Caserta, Campagnatico, Grosseto, sono comuni più o meno piccoli. Voglio salutare Antonio Turdò, buongiorno. Buongiorno. Coordinatore del comitato Pro Trignina, dove siamo fisicamente? Sì. Ci aiuti in Italia. Siamo a Togliola, nell'area di servizio di Girasole, in provincia di Chieti, al confine tra l'Abruzzo e il Molise. Cioè, in questo momento lei è lì, io intendevo dove siamo, sì, come nati, comitato. Siamo nati, proprio in una stazione di servizio. È nato in un'area di servizio dietro le violente polemiche che si producevano tutti i giorni per le multe. E perché adesso i comitati si arrabbiano, cioè i cittadini si arrabbiano, si formano comitati, eccetera. Che vuol dire? Che strada ce l'avete voi o con che comune? Strada statale, che è poi una strada principale sulla direttiva Tirreno-Adriatica, che porta Vasto verso Napoli, Isernia, Venafro, Napoli. Ed è una strada che in seguito alla presenza eccessiva di autovelox negli ultimi tempi è stata persino abbandonata, cioè abbiamo anche trasportatori che dall'Emilia Romagna avrebbe molto più senso fare la 14, poi uscire a Vasto Sud e imboccare la strada statale Trignina. Ma ci sono troppi autovelox, hanno rinunciato. Ci sono troppi autovelox, quindi è stata oramai la vallata è stata abbandonata. Basterebbe rispettare il limite di velocità o no? Dice. Che inganno ci sarebbe, dietro? Primo, il discorso è che 70 km orari su una strada statale è troppo poco, chiaramente. E vabbè, quello è la legge. No, il discorso della strada statale è il limite 90. Primo, secondo, poi è una strada che è a scorrimento veloce, cioè non è una strada di montagna, noi siamo una fondovalle, siamo all'altezza del mare, quindi un minimo di velocità rapportata, adesso i nuovi mezzi, le nuove macchine ovviamente hanno una capacità di fermata tale che non stiamo, anche perché noi siamo un comitato pro Trignina, sì. Non siamo un comitato solo contro autore, cioè non è che noi vogliamo tutelare chi va a 160 all'ora. No, perché ma è vero che date il patrocinio legale gratuito a chi prende la multa e sta però nei 90 km? Certo, questa è tutta una coerenza, perché noi abbiamo questa intenzione di tutelare chi ha un rispetto anche della propria vita, propria, perché andare a 90 all'ora ha una possibilità di fermata, andare a 160 vuol dire farsi male a se stessi e anche agli ma altri. Certo, io vorrei tornare a Maurizio Caprino, che come possiamo leggere il fatto che c'è questo proliferare di comitati, di cittadini arrabbiati, ricorsi ai giudici di pace, lettere ai prefetti, cos'è? Il popolo che si ribella o il popolo che si ribella giustamente o si ribella a delle regole del codice della strada che ci sono? Ma non è tanto una questione di regole del codice della strada, è come dicevo io prima, cioè se abbiamo un paese disordinato, è chiaro che se si costruisce vicino a una statale, lungo una statale, ci sono addirittura delle caserme dei carabinieri vicino a una statale che danno direttamente su di essa, è chiaro che sulla statale devono mettere limiti a 50, a 30, a 70 e non si può più andare a 90, questo è il primo problema. Il secondo è che le statali, anche dove sono sgombre, sono tenute malissimo, per cui talvolta è necessario limitare la velocità proprio perché ci sono buche, guardrail non sostituiti, eccetera, eccetera. Il terzo problema è che però secondo me è minore degli altri due, è che alcuni comuni ci hanno marciato e quindi hanno chiesto ad arte all'ANAS di abbassare i limiti proprio per far cassa con l'autovelox, ma questa che è la cosa che la gente crede come prioritaria, come di maggioranza, in realtà è successa poche volte, io ne ho accertata anche qualcuna, però è una minoranza. Sì. Per concludere, Maurizio, vogliamo ricordare che fare controlli di velocità con apparecchi nascosti è vietato. È vietato dall'estate 2007. Nonostante ciò se ne fanno? Cioè nascondere... È successo anche in grandi città, non so quale sia l'intento, ovviamente non possiamo dimostrarlo, però certo è che non si può più fare. Io personalmente non sono neanche d'accordo con la legge che li vieta, perché secondo me qualche controllo nascosto ci vuole pur sempre. Però la legge... Non tutti, qualcuno. La legge è quella. Legge è quella. Allora, no, io vi ringrazio. Le 8:49 minuti, saluto il presidente del Consiglio Comunale di Alessandria, Maurizio Grassano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Eccoci. E a tutti gli ascoltatori della Lega. Allora, abbiamo letto, lei prende come indennità di consigliere circa 1.200 euro netti al mese, insomma, più o meno così, giusto? Come consigliere. Come dice la legge. Come dice la legge. Però abbiamo letto che sulla stampa di ieri c'è grande polemica, pare anche nel Consiglio Comunale di Alessandria, perché lei è ancora in aspettativa, non si è messo in aspettativa, insomma, di un'azienda di cui è amministratore, credo, o lavoro. No, non sono. Vede, purtroppo i giornali, alcuni giornalisti hanno l'abitudine di scrivere parecchie cose. Vabbè, sbagliamo sempre. Effettivamente hanno sbagliato. Non sono amministratore delegato dell'azienda. L'azienda non è la mia. Lavora in questa azienda. È dipendente. sono dipendente di un'azienda, così come milioni di italiani sono dipendenti in altre. Perfetto, aziende. Allora, siccome c'è anche la conferma del sindaco di Alessandria che per tutte le ore di assenza che lei deve fare dall'azienda per essere al consiglio comunale, il comune deve rimborsare l'azienda per queste assenze. Pare che il conto sia arrivato a 200, arriverà col ritmo che si sta tenendo questo mese al 31 dicembre a 240.000 euro di rimborsi per le assenze che lei fa dalla sua azienda per fare il presidente del consiglio. Della mia azienda. Dell'azienda dove lavora, mi scusi, era per semplificare. 240.000 euro al mese di rimborsi, all'anno, è questa la cifra, 240.000 euro all'anno? Il problema non è la cifra, il problema beh, è no, che anche la cifra, se io fossi, no, il problema è quello che dice la legge. Io ho sentito giustamente lei che prima, nella intervista di prima, diceva eh sì, devono dare 70 all'ora, ma giustamente la legge dice questo. La legge è la legge. Non si può nascondere gli autovelox, non si dovrebbero nascondere gli autovelox perché la legge dice così. Vabbè, la legge dice che lei ha diritto. No, ma la legge ha diritto, dice che lei ha diritto a dei rimborsi per le assenze che fa dall'azienda in cui lavora per fare il presidente del consiglio comunale. No, vede, guardi, io non ho diritto a nessun rimborso. L'azienda per le assenze che io faccio istituzionalmente per quando sono in comune ha diritto a dei rimborsi. Esatto. Però lei dice che la cifra, mi scusi, siccome lei dice che la cifra non conta, il sindaco di Alessandria l'ha confermata ieri, cioè è questa la cifra che la sua azienda percepisce per le assenze che le fa. La sua azienda dove lei lavora, non continui. L'ha detto 50 volte che non è la sua azienda, l'azienda dove lei lavora. No, 240. Dato che sono stato, abbi pazienza, dato che sono stato oggetto di una feroce e denigratoria campagna di stampa, dove sembra che io sono l'unico caso, in realtà di casi come il mio ce ne sono centinaia. Ma va bene, ma ci aiuti a tirarli fuori. Però lei non mi ha ancora detto se la cifra è quella. Mi scusi. Perché le spiego. Allora, se io avessi fatto l'operaio o avessi fatto un altro tipo di lavoro meno pagato, questa cosa non sarebbe venuta fuori. Però va benissimo, però presidente, il meccanismo sarebbe stato uguale. Presidente, mi perdoni, ma perché non me la vuole confermare o smentire questa cifra? È così, cioè lei costa, ma lei... Io non la voglio né confermare né smentire, perché io non lo so, perché non sono io che chiedo il rimborso. Beh, il sindaco Fabio ha detto purtroppo la cifra è quella, cioè 240.000 euro, oltre al suo stipendio ovviamente, costa così, ci costa così alle casse comunali il presidente del consiglio comunale, questo ha detto il suo sindaco. Io, guardi, non lo so perché il rimborso purtroppo non lo chiedo io, perché purtroppo l'azienda non è la mia. Dopodiché, ma lei non si dimette da questa azienda? Perché non si mette in aspettativa dall'azienda, così non ha più diritto a questi... Ecco, questo è un altro discorso, allora, lo faccia! Lo faccio molto volentieri. Il punto è questo. Lei, che è un attento giornalista osservatore, avrà notato che nell'ultima finanziaria del governo Prodi, il governo Prodi ha obbligato i consiglieri comunali ad andare a lavorare, perché i consiglieri comunali avevano due possibilità. O andare in aspettativa e farsi pagare i contributi dal comune per la pensione, oppure continuare a lavorare. Io però, presidente, devo chiudere perché sto sforando. Mi dica se si dimette o no, se si mette in aspettativa o no dall'azienda, no, che non è la sua. Io faccio di più, non solo non mi mette, io mi licenzio totalmente a questo punto, perché secondo me è assurdo mettersi in aspettativa e usufruire dei soldi del comune quando, sapendo che mettendomi in aspettativa, il mio titolare mi ha detto o ti licenzi, perché se tu ti metti in aspettativa sappi che quando finisci l'aspettativa non ti riassumo devi più. Tornare, perché certo, quindi lei si licenzia, lei si licenzia, il suo posto sarà occupato. E allora, dato che io so già che il mio posto sarà occupato, non trovo giusto mettermi in aspettativa, fare una furbata per prendere i contributi dal comune sapendo che il posto di lavoro di... Perfetto, allora lei, la notizia è questa, insomma, si licenzierà, non peserà più per queste casse, insomma, per questi 240.000 euro che non vanno a lei, vanno all'azienda che non è la sua, ma lei ci lavora. È stato chiarissimo, ma ci ha dato una notizia. Ci fermiamo qui, grazie al presidente del consiglio comunale di Alessandria. C'è solo il tempo per dire, tra poco, Giuliano Ferrara con il caso Eluana Englaro. A domani.